You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Benvenuti a Indovina chi viene a cena, buonasera a tutti da Valentina Furlanetto. Ogni sabato una storia in un piatto. Stasera andiamo a Napoli, dove ha aperto da poco il ristorante Chicana, il primo risto bar per l'integrazione a Napoli, gestito da rifugiati e richiedenti asilo. Hanno tutti loro un'età compresa tra i 19 e i 32 anni, iraniani, somali, senegalesi e del Mali. Ed è del Mali proprio il protagonista della serata con noi, perché abbiamo con noi uno dei fondatori del ristorante, lo chef del ristorante e presidente anche e rappresentante della società cooperativa di catering Tobili, da cui nasce tutto. E allora io do il benvenuto a Bouyaghi Konaté. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io sono Bouyaghi, vengo dal Mali, sono qui in Italia da 4 anni. E poi io sono il presidente e rappresentante legale della cooperativa Tobili. E sì. Poi io membro della fondatore di Chicana, il ristorante Chicana. Sì. Comunque tutto è nato all'interno di Tobili, questa l'idea di progettare questo ristorante Chicana. E adesso lo spieghiamo bene. Allora, sì. Tobili è una cooperativa, no? Che fa catering, anche corsi di cucina, ovviamente sì. Una cucina internazionale che è ispirata alle vostre terre, perché poi venite da molti paesi diversi, sì, che sì. È stata premiata da Coop Fond Unicoop Tirreno come miglior startup campana nel 2016 e fa moltissime cose, da cui è nata l'idea di questo ristorante, no? Che si trova, innanzitutto diciamo dove si trova, no? Bouyaghi, si trova a Napoli, dove esattamente? Via del Parco Margherita, Piazza Medeo. È stato inaugurato proprio pochi giorni fa, il 26 di ottobre. È il primo ristorante che è gestito da rifugiati e richiedenti asilo a Napoli. Comunque iniziamo da Tobili, perché tutto è nato all'interno di quello. Tobili è stato creato dai giovani migranti italiani. È nato grazie a un percorso di integrazione organizzato dall'Est Onlus e Project Ahead, che hanno organizzato un corso per creazione e costruzione di impresa, e dopodiché abbiamo partecipato al corso. Siamo detto, perché non creiamo una cooperativa di catering, dato che tutti quanti abbiamo la passione per la cucina. Però adesso siamo in 4 in società. Nella Fiore è l'Italia, poi c'è il Pippo, che è il nuovo socio del ristorante Chicana, e poi c'è la signora Somala, che è di Sucri, Sucri Abdul. Ristorante, lavorano anche altre persone, no? Ci racconti sono un po' chi ci lavora? Che uno si chiama Zafar e l'altro è Said, e poi c'è un altro ragazzo senegalese che è Fuseni Silla, e poi c'è anche un altro ragazzo del Mali che è Kassim Fofana. Said fa il barman e Zafar si occupa della sala e narghilè. E poi c'è Silla che fa il cameriere, e poi c'è Kassim che fa aiuto cuoco, e Shukri è il secondo chef della cucina. E lei è lo chef. Fra poco le chiederò anche di raccontarci qualcosa del menù, e anche magari se ci regala un piatto, se ci racconta proprio un piatto che vi rappresenta. Però so che il nome del ristorante ha anche un significato nella sua lingua. Il ristorante si chiama Chicana. Chicana è la lingua bambara del Mali e vuol dire vieni qua. E poi invece se andiamo dal Senegal vuol dire chi sei. Dietro questa parola qua si nasconde una storia. Quindi è un nome che significa accoglienza, conoscenza dell'altro. Vieni qua, in senso che c'è accoglienza dentro, vieni qua. Perché è una parola quindi che acquista diversi significati a seconda della lingua, ma è comune, mi pare di capire, a tutte queste lingue. Oltre che significato stretto di questo nome, in realtà il luogo che avete aperto è un luogo proprio dedicato all'integrazione, perché saranno coinvolti cittadini non soltanto migranti, ma voi vi proponete proprio una clientela italiana. Una clientela italiana proprio. Prima il locale si chiamava Narghilè Bar. Narghilè, Fiscia, sì. Sì. E poi dopo che siamo entrati in socio con il vecchio proprietario che stava lì, e poi abbiamo deciso di cambiare il nome che è diventato Chicano. C'è interesse a Napoli per la cucina africana o internazionale comunque? La cucina internazionale comunque si sta crescendo qui a Napoli, quindi piano piano le cose si migliorano. Quindi c'è un interesse, anche se la tradizione napoletana di cucina è molto importante, molto forte, quindi non ci sono delle resistenze, delle diffidenze? Allora, la resistenza della cucina napoletana comunque è molto, come si può dire, è molto importante per loro, perché ognuno ci attiene alla sua propria tradizione, però noi vogliamo comunque sorprendere delle persone con la sua cucina, perché magari la gente che sono curiosi di mangiare qualcosa di diverso. E ora parliamo con Daniela Fiore, che è responsabile dell'area integrazione e lavoro di LES Impresa Sociale Onlus. Ci racconta il ruolo che avete avuto in questa avventura. Sì, allora LES Impresa Sociale Onlus gestisce un progetto STRAR che fa parte di un sistema di protezione per richiedenti asilo e per rifugiati nazionale. STRAR, cioè un centro dove vengono accolti i rifugiati e i richiedenti asilo, no? Sì, che fa capo allo STRAR nazionale ed è un progetto del Comune di Napoli gestito da LES. Mm-hmm. All'interno del progetto i ragazzi seguono dei percorsi di integrazione e di inserimento socioprofessionale, e all'interno delle attività destinate proprio al potenziamento delle competenze dei richiedenti e dei rifugiati accolti, abbiamo attivato dei percorsi per la gestione d'impresa. Uno di questi percorsi, organizzato nel 2015, ha determinato poi la costituzione di Tobilì, che è la cooperativa di catering etnico, da cui nasce poi l'idea di Chicana, di questo, diciamo, luogo di incontro e di scambio culturale. Attraverso, diciamo, varie forme di arte, di musica, ma soprattutto, come diceva, insomma, Buyagi, attraverso il cibo. Quindi voi avete fatto da appoggio e da piattaforma, diciamo, sì, così, per accompagnare queste persone verso un percorso imprenditoriale consono alle loro capacità e ai loro desideri. Sì, li abbiamo seguiti nella fase di costituzione della cooperativa, poi nella fase di progettazione successiva, di fundraising, di apertura, diciamo, dello spazio, e Tobilì, grazie, diciamo, anche a questo accompagnamento, è riuscito ad essere premiata da Unicop Tirreno, Cop Found, nel 2016 come migliore startup campana. Sì. A questo concorso partecipavano le startup della Campania, non soltanto ovviamente di stranieri, ma anche di italiani, no? Sì, assolutamente, erano startup sia italiane sia stranieri, cioè a prescindere dalla nazionalità dei partecipanti, diciamo, quello che veniva premiato era proprio la caratteristica dell'innovazione sociale. Questa avventura è appena nata, quindi non si può ancora dire come andrà, ma i primi giorni promettono bene? I primi giorni fortunatamente promettono bene. Lo spazio, diciamo che la cucina etnica qui a Napoli sta, diciamo, i napoletani sono molto legati alle tradizioni, soprattutto dal punto di vista culinario, ma dall'altra parte è un popolo anche molto curioso, quindi la cucina etnica sta diciamo migliorando, le persone sono molto curiose anche se non hanno mai provato i piatti etnici. Poi c'è il narghilè che si fuma. Insomma, per passare una serata diversa a Napoli. Diversa. Ci fermiamo brevemente perché abbiamo una piccola pausa, ma torniamo a parlare con lei di questo ristorante, il primo ristorante gestito da richiedenti asilo e rifugiati a Napoli, tra pochissimo. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? Parlo alla radio, ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio. Melog, il piacere del dubbio, dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12 su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera siamo nei dintorni di Napoli, perché lì ha aperto un ristorante, il primo ristorante per l'integrazione, totalmente gestito da rifugiati e richiedenti asilo che sono dell'Iran, del Senegal, del Mali e anche della Somalia. Tutte queste persone cucinano una cucina internazionale, e ci stava parlando, ci stava raccontando uno dei fondatori e lo chef Bouyaghi, che è con noi in collegamento da Napoli, di questo tentativo di portare i napoletani, gli italiani, a passare una serata diversa. Vuole sfidare la tradizione del ragù napoletano. La vostra cucina che cosa propone? Qual è il vostro menù? Innanzitutto iniziamo con gli antipasti, e poi abbiamo sambus, che è un piatto della Somalia. Sono dei fagottini di forma triangolina, ripieno di carne macinato oppure con le verdure, secondo alla zona in cui vengono preparati. Quali sono i piatti forti? I piatti forti sono quello di tabbouleh, insalata di couscous, è il piatto tipico libanese. Si fa con il couscous e le verdure. E poi abbiamo il kebab, che è del Senegal, è il piatto più famoso del Senegal. Quindi, come dicono loro, il pasto è il momento importante per condividere delle idee, delle culture, queste cose qua. Il famoso riso della pace. Allora, c'è pure il riso della pace, che è comunque è nato all'interno di Tobili. Questo riso qua è molto... Perché abbiamo chiamato riso della pace? Perché è tutto colorato, insomma, tutte le verdure hanno diversi colori mischiato insieme con il riso. Questa volta abbiamo chiamato il riso della pace. E poi abbiamo il cignante, che la chiama mio piatto del presidente. È un piatto che è fatto con la carne e mostarda, è un piatto buonissimo. E poi abbiamo il jegge. Jegge è sempre nella lingua bambara del Mali, comunque vuol dire il pesce a giuro. Quindi fatto con pesce al giuro e patate africano e un po' di carote. Ma bevete anche qualcosa di particolare? Qualcosa che proviene dai paesi da cui voi arrivate? Allora, le cose da bere abbiamo il bissap. Che cos'è il bissap? Allora, il bissap si fa con fiori di ibisco e ananas. È tipico della cucina maliana, senegalese, egiziano. E poi abbiamo il ginger, che si fa con lo zenzero e ananas. Volendo si può aggiungere anche un po' di pera, è sempre della cucina maliana, senegalese, questa cosa qua. E si fanno proprio al momento, cresce. Bouyaghi, ma questa passione per la cucina le è venuta di recente, oppure lei era uno chef anche in Mali? E come è arrivato in Italia e quando? Allora, sono venuto qui in Mali... nel 2014, e poi io qui comunque non avevo la grande passione per la cucina, però condividendo le ricette con gli amici, e poi io mi è venuta questa grande passione per la cucina. Ho comunque lavorato in vari ristoranti qui a Napoli per imparare bene la cucina, comunque anche la cucina napoletana comunque lo so fare qualcosina dentro. Abbiamo partecipato anche a questo percorso di integrazione, che il corso è stato organizzato, e poi io, dopo di là, che abbiamo deciso di creare questa cooperativa di cantiere multietnico che si chiama Tobili. Tobili è nella lingua bambara del Mali, che vuol dire cucinare. Ci racconti qualcosa di lei? Lei diceva che è arrivato 3 anni fa in Italia. Come è arrivato dal Mali e quanti anni aveva? Allora, sono venuto dal Mali, sono andato in Algeria, poi dopo Algeria sono andato in Libia. Da Libia qui sono venuto con la barca, e poi io ne avevo 17 anni. Quando sono arrivato sono stato accolto in una comunità per i minori non accompagnati, che la comunità si chiama Sant'Elena, è sempre nella zona di Caserta, da Maria Capua a vedere. E quindi poiché era minorenne è stato accolto da una comunità per minori non accompagnati. E poi dopo che ho compiuto 18 anni sono stato trasferito all'associazione Lesson Luz. Poi è da lì che è nato tutto il percorso di integrazione. Bouyaghi, com'era la situazione in Mali? Perché se n'è andato? La situazione non è bella proprio, perché c'è la guerra che non finisce mai, però la gente che dicono che è finito, però anche in questi giorni stanno morendo le persone là. È una cosa bruttissima che stiamo vivendo adesso. È arrivato, diceva, in Algeria e poi in Libia. La situazione in Libia com'era? La situazione in Libia è ancora più peggio, perché non si sta più presidente, un paese è diventato come devo dire, un paese che la gente non era libera di fare quello che vogliono, e poi a un certo punto se si liberano, comunque da loro l'arma è comunque un giocattolo per loro, quindi la situazione è comunque pericolosa adesso. La situazione di violenza continua pure ancora, perché non ho, in un paese che non c'è presidente, non si può comunque vivere lì dentro proprio. È un Quanto è rimasto in Libia? Un anno. E dove viveva? Allora, stavo a Tripoli, in un centro dove vivono tutti gli stranieri dentro. In che condizioni vivevate? Allora, le condizioni comunque non è che c'era acqua e corrente, però per la gente che veniva ogni giorno, se tu vai a lavorare e poi torni a casa, la gente che vengono con l'arma e poi io ti prendono tutti i soldi, se non li dai ti ammazzano proprio così. Quindi dovevate lavorare e diciamo quel frutto del vostro lavoro, il denaro, veniva requisito? Sì, sì, è così proprio. Lo ricordiamo, lei era minorenne. Poi ha deciso di partire. Però per partire bisognava avere dei soldi. Come è riuscito a avere questi soldi? I soldi? E comunque c'ho dei zii che mi hanno aiutato per venire. Quindi ha pagato dei soldi a dei trafficanti? Si paga, perché niente gratis. Certo. E quindi ha pagato? Ci racconti un po' questo viaggio dalla Libia. È partito con un barcone, immagino. Dalla Libia, sì, ho preso una barca che ho passato quasi 3 giorni in acqua. Quindi. Il suo sogno era di venire in Italia oppure voleva andare in altri paesi dell'Europa? Venire in Italia non era proprio il mio sogno, perché in Mali stavo studiando, tutto andava bene fin quando che non è iniziato questa guerra qua. In Mali studiavo la ragioneria e poi io qua quando sono venuto ho fatto altre cose diverse. Quindi lei pensava di rimanere in Mali, poi per la guerra è scappato. Sì. E ora vuole rimanere in Italia? Se le cose vanno bene, sì. A Napoli com'è la situazione? Ci sono tensioni, penso ad episodi di razzismo, sa che poco tempo fa c'è stato un brutto episodio di razzismo a Roma, un ragazzo del Bangladesh che è stato picchiato, ci sono situazioni anche di questo tipo. Lei ha mai provato questi problemi di integrazione, di razzismo? Allora, in ogni parte del mondo che vai comunque esiste un razzismo, e poi ci sta la gente buona, perché non possiamo essere mai tutti uguali. C'è la gente buona e la gente cattiva, e questo è. Poi la situazione qui a Napoli, la gente parla che sono brutto, però per me è una cosa comunque, è una città bellissima, che si splende il sole e tutte queste cose qua, il mare, è comunque bellissimo. La cucina maliana risente di influenze senegalesi e nordafricane, basata essenzialmente sul miglio, sul sorgo, sul fonio e sul riso, presenta pietanze come il couscous, che accompagna la carne, solitamente pollo, manzo e montone, o il pesce del Niger. Troverete spesso un ottimo capitain insieme a verdure cotte. A seconda delle regioni e delle diverse culture, cambiano i cereali usati o i condimenti. Il piatto principale dei Bambara è uno sformato simile a una polenta non salata, detto to, a base di cereale. Al to viene aggiunto un condimento a base di carne, di pesce, di salsa di arachidi o di gombo, ricavata da un arbusto locale.